Ad alta voce. Omero Antonutti legge Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello. Chi poté più badare alle prodezze di Max nel buio? Il tavolino scricchiolava, si muoveva, parlava con picchi sodi o lievi. Altri picchi s'udivano sulle cartelle delle nostre seggiole e or qua or là sui mobili della camera. E raspamenti, strascichii e altri rumori. Strane luci fosforiche, come fuochi fatui, si accendevano nell'aria per un tratto, vagolando, e anche il lenzuolo si rischiarava e si gonfiava come una vela, e un tavolinetto porta sigari si fece parecchie passeggiatine per la camera, e una volta finanche balzò sul tavolino intorno al quale sedavamo in catena. E la chitarra, come se avesse messo le ali, volò. Volò dal cassettone su cui era posata e venne a strimpellar su noi. Mi parve però che Max manifestasse meglio le sue eminenti facoltà musicali coi sonagliolini d'un collaretto da cane che a un certo punto fu messo al collo della signorina caporale, il che parve al signor Anselmo uno scherzo affettuoso e graziosissimo di Max, ma la signorina caporale non lo gradì molto. Era entrato evidentemente in scena, protetto dal buio, Scipione, il fratello di Papiano, con istruzioni particolarissime. Costui era davvero epilettico, ma non così idiota come il fratello Terenzio e lui stessi volevano dare a intendere. Con la lunga abitudine dell'oscurità, doveva aver fatto l'occhio a vederci al buio. In verità, non potrei dire fino a che punto egli si dimostrasse destro in quelle frodi congegnate avanti col fratello e con la caporale. Per noi, cioè per me, per Adriana, per Pepita e il Bernaldez, poteva fare quello che gli piaceva e tutto andava bene, comunque lo facesse. Lì egli non doveva contentare che il signor Anselmo e la signora Candida, e pareva vi riuscisse a meraviglia. È vero bensì che nell'uno nell'altra erano di difficile contentatura. Oh, il signor Anselmo gongolava di gioia, pareva in certi momenti un ragazzetto al teatrino delle marionette, e a certe sue esclamazioni puerili io soffrivo, non solo per l'avvilimento che mi cagionava il vedere un uomo, non certamente sciocco, dimostrarsi tale fino all'inverosimile, ma anche perché Adriana mi faceva comprendere che provava rimorso a godere così, a scapito della serietà del padre, approfittandosi della ridicola dabbennaggine di lui. Questo solo turbava di tratto in tratto la nostra gioia. Eppure, conoscendo Papiano, avrebbe dovuto nascermi il sospetto che, se egli si rassegnava a lasciarmi accanto Adriana e, contrariamente ai miei timori, non ci faceva mai disturbare dallo spirito di Max, anzi, pareva che ci favorisse, ci proteggesse, doveva aver fatto qualche altra pensata. Ma era tale in quei momenti la gioia che mi procurava la libertà indisturbata nel buio, che questo sospetto non mi s'affacciò affatto. «No!» strillò a un certo punto la signorina Pantogada, e subito il signor Anselmo. «Dica, dica, signorina, che è stato, che ha sentito?» Anche il Bernaldez la spinse a dire premurosamente, e allora Pepita. «A chi? A chi su un lado? Una carissia!» «Con la mano?» domandò il Paleari. «Delicata, vero? Fredda, furtiva e delicata. Oh, Max, se vuole sa essere gentile con le donne. Vediamo un po'. Max, Max, potresti rifare la carezza alla signorina?» «A chi è sta? A chi è sta?» si mise a gridare subito Pepita, ridendo. «Che vuol dire?» domandò il signor Anselmo. «Rifà, rifà, ma carissia. E un bacio, Max?» propose allora il Paleari. «No!» strillò Pepita di nuovo, ma un bel bacione sonoro ne fu scoccato sulla guancia. Quasi involontariamente io mi recai allora la mano di Adriana sulla bocca. Poi, non contento, mi chinai a cercare la bocca di lei e così il primo bacio, bacio lungo e muto, fu scambiato fra noi. Che avevo fatto? Niente, siamo giusti. Avevo fatto all'amore, al buio. Era colpa mia? No, non avevo veduto più ostacoli e avevo perduto il ritegno che m'ero imposto. Papiano